Sempre un amabile leggiadro viso, in pianto in riso e menzognero. La donna è mobile, qual piuma il vento, muta d'aceto e di pensier. Pensier di pensier. È sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida mal cauto il core, pur mai non sentesi felice appieno, chi su quel seno non liba amore. La donna è mobile, qual piuma il vento, muta pensier, e di pensier.